dove la terra è così amara che il deserto al suo confronto è come gocce di rugiada, dove la vita non è un diritto ma resta solo un privilegio, e c'è chi prega per morire perché potrebbe andargli peggio. Bambini chiusi nella sorte tra violenza, fame e morte, senza casa, senza un tetto, senza conoscere l'affetto, picchiati e uccisi come cani per bimbi ricchi e meno sani, o come carne da macello per pedofili al bordello. Patiscono in silenzio il loro inferno, orchi che dovrebbero bruciare in eterno, angeli che piangono con le ali spezzate, angeli traditi da persone fidate, violenze consumate dentro i muri di una casa, su cuccioli indifesi come petali di rosa. E riflesso nello specchio, tristemente vedo cosa il demonio ha fatto uomo e la sua anima mostruosa. Via, come petali nel vento su una scia, con terrore alle spalle, lividi sulla pelle, la vergogna a parlare. Di altre paure attendono, altre paure nascono e non dimenticano, e martiri innocenti a fiume il sangue versano, da mostri senza scrupoli che picchiano e violentano. Dal nulla i bambini riescono a trovare tutto, mentre l'uomo cerca di trovare il nulla dappertutto. Spalle, lividi sulla pelle, la vergogna a parlare, Dio fammi volare via.